Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. C'è stato un evidente errore di sottovalutazione, cioè questa storia dell'esistenza di un'indagine doveva essere resa esplicita, alla città è stato taciuto questo elemento, basta prenderne atto, un'assunzione di umiltà, che ci sia un nuovo corso della politica che non ha più il volto arrogante, ma accetta anche di aver sottovalutato gli effetti di una mancanza di trasparenza. E questa, cara ascoltatrice, cari ascoltatori, è la dichiarazione, piuttosto fuori dal coro se vogliamo dire, dell'assessore Berdini, assessore all'urbanistica di Roma, quindi della Giunta 5 Stelle, che dice che tutto questo caso dell'assessore Muraro e poi le dimissioni che ci sono state, insomma questo caos che riguarda la Giunta di Roma, ha peccato di sottovalutazione, di errori che sono stati fatti, e dice che la politica deve prendere un nuovo corso, qui bisogna ammetterlo, bisogna chiedere scusa e fare in modo che ci sia un cambio di passo. Naturalmente questo, come avete capito, come avrete avuto modo anche di accorgervi oggi, è sempre il tema caldissimo della politica italiana, delle notizie italiane, questa del caos della giunta romana. Ne parleremo ampiamente su questo, ovviamente, come su tutti gli altri temi qui di Effetto Notte. Potete scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure al numero per i messaggi e per i WhatsApp, che è 349-238-6666. Questa è la seconda puntata della nuova stagione di Effetto Notte, che è ripartito ieri, quindi appuntamento imperdibile per sapere in 60 minuti, per essere sempre aggiornati questi 60 minuti sulle notizie della giornata e anche capire alcuni argomenti che magari durante la giornata vi sono parsi poco chiari. Quindi avvertite anche amici, amori, familiari e conoscenti del fatto che Effetto Notte è ripartito. E ripartiamo quindi con i titoli più importanti. La bufera sul Movimento 5 Stelle a Roma, i vertici pentastellati divisi, molti per le dimissioni dell'assessora Muraro. Pizzarotti attacca e dice via il direttorio. Renzi anticipa la nuova legge di stabilità, più soldi alle pensioni minime, uscire prima costerà pochissimo e sblocchiamo i contratti pubblici. E sul terremoto annuncia la ricostruzione durerà molti anni, i soldi vanno spesi bene. Blitz contro gli anarchici del FAI, 7 arresti a Torino, accuse per esplosione di 3 ordigni, volevano uccidere. Le presidenziali americane, Hillary guida gli stati, Trump in leggero vantaggio invece nel voto popolare. La Cina avverte Hong Kong, ci saranno azioni decise contro qualsiasi forma di indipendenza. Università, oggi c'è stato il test di ammissione a medicina, 9.224 posti, passerà 1 su 6, proteste al Ministero dell'Istruzione, no al numero chiuso. Samantha Cristoforetti, la prima donna astronauta italiana, è incinta. Olimpiadi, il presidente del CONI Malagò assicura, senza ok del comune, niente giochi. Vendemmia, Italia numero uno al mondo, sorpassa Francia e Spagna. Partiamo quindi dalla tempesta che si è abbattuta ormai da parecchi giorni, da parecchie settimane sulla giunta Raggi a Roma, tempesta che scuote il Movimento 5 Stelle, anche la base è in rivolta, sul web ci sono proteste ma anche incoraggiamenti alla sindaca Raggi. L'assessora Muraro intanto ha consegnato alla commissione Ecomafia un dossier di 1000 pagine per difendersi, nel frattempo la procura ha avviato un'indagine anche sulla nomina di Carla Ranieri a capo di gabinetto. Alla Camera intanto c'è stata una riunione fiume del direttorio del Movimento 5 Stelle. In Campidoglio intanto la sindaca Raggi ha oggi incontrato prima i consiglieri comunali e da qualche minuto è iniziata alle 20.30, dovrebbe essere iniziato alle 20.30 l'incontro invece con gli assessori. Cosa succede? Che poi Di Maio, per quanto riguarda i vertici del movimento, Di Maio ha deserta la prima puntata di Politics, che va in onda tra poco su Rai 3, che ha preso il posto di Ballarò, e anche Di Battista annulla la tappa del suo tour, dice devo tornare, ci sono problemi a Roma. Pizzarotti, il sindaco di Parma, la voce dissidente sospesa dal Movimento 5 Stelle, intanto attacca e dice il direttorio si deve dimettere. E questo sarà poi il tema da approfondire tra poco con il primo ospite. Sul caso Roma è intervenuto anche il presidente del Consiglio Renzi, che nelle anticipazioni della puntata registrata di questa sera di Porta a Porta ha commentato della vicenda del Movimento 5 Stelle a Roma: a me dispiace, tante bugie indecorose, ma non festeggio. Ha poi annunciato che nella legge di stabilità ci saranno provvedimenti in favore delle pensioni minime, dell'uscita anticipata dal lavoro che costerà poco, dice misure a favore delle partite IVA e dei dipendenti pubblici. E sentiamo questo passaggio sulle pensioni. Quando si dice interventi sulle pensioni, non è come in passato che interventi sulle pensioni voleva dire che vi portavano via i soldi, no, vuol dire che metteremo più denari in tasca a chi di pensione prende poco. E poi ha annunciato, per quanto riguarda il referendum, che si terrà molto probabilmente tra il 15 novembre e il 5 dicembre. E passiamo al terremoto in centro Italia, si cercano delle soluzioni per la ricostruzione delle case colpite dal sisma. Ore di consultazioni alla ricerca delle soluzioni comuni da inserire in Casa Italia, il progetto di ricostruzione delle aree colpite dal sisma. A turno si sono confrontate istituzioni, organizzazioni professionali, associazioni imprenditoriali, sindacali e ambientaliste. Ad aprire i lavori il premier Matteo Renzi insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti. Apprezzamenti sul fronte economico sono arrivati dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui il piano Casa Italia testimonia che siamo capaci in momenti di emergenza di esprimere il meglio del paese. Si avvia, diciamo, una questione che può essere un modello che parte da questa questione particolare, che dà un'idea di medio termine del paese e che può riguardare anche elementi della economia complessiva, cioè la crescita. Soddisfatti anche i sindacati. Critiche invece sono arrivate dal presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, secondo cui le cifre che circolano nel progetto sarebbero tutte virtuali perché basate su dati statistici e non su fatti reali. Intanto continua ad aumentare il numero degli sfollati, ora 4.637, e si fa sempre più urgente la necessità di trasferirli in soluzioni abitative diverse con il freddo in arrivo. Chiara Piselli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'economia adesso, l'Italia è a crescita zero nel secondo trimestre, lo conferma anche Eurostat, che segnala pure un'eurozona in preoccupante rallentamento. Nonostante i proclami della Commissione Europea all'ultimo G20, nella quale si vantava una crescita superiore a Stati Uniti e Gran Bretagna, l'eurozona segna il passo. Nelle ultime rilevazioni Eurostat, il PIL dei paesi euro ha fatto registrare un misero più 0,3% nel secondo trimestre dell'anno, un decimale in meno rispetto all'Europa 28 e due decimali in meno rispetto al primo trimestre. Per tornare all'infelice paragone fatto da Jean-Claude Juncker in Cina, l'eurozona è cresciuta esattamente come gli Stati Uniti nel secondo trimestre e la metà rispetto alla Gran Bretagna nei mesi che hanno condotto alla Brexit. Tra i paesi a crescita zero, oltre all'Italia, ci sono anche Francia e Finlandia, mentre la Spagna, senza governo, fa segnare un più 0,8% e la locomotiva tedesca guadagna 4 decimali. Il motore della crescita sembra posizionarsi ad est. Volano le economie di Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. La migliore è Bucarest, che mette a segno un più 1,5% nel PIL. Tornando all'eurozona, il timore degli analisti è che si vada verso una fine del 2016 debole sul fronte della crescita, anche a causa delle incertezze che continuano a tormentare l'Europa. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto l'Italia, parlando di economia, di un comparto particolare, è sul più alto gradino del podio mondiale per la vendemmia 2016, abbondante di qualità, in corso quindi nel segno dell'ottimismo. La penisola, con 48 milioni e mezzo di ettolitri, sorpassa le previsioni di Spagna, 42,9 milioni, e Francia, 43 milioni di ettolitri. Questo secondo le stime vendemmiali presentate presso il Ministero delle Politiche Agricole, dati in linea con le indicazioni emerse in vigna. Siamo all'estero con le presidenziali americane, all'indomani del Labor Day, considerato l'inizio del periodo caldo della campagna elettorale. Un sondaggio della CNN vede Donald Trump in vantaggio per 45 punti a 43 nel voto popolare per la corsa alla Casa Bianca, ma secondo l'analisi del voto stato per stato del Washington Post, Hillary Clinton avrebbe già in tasca 244 voti su 270 necessari per conquistare la Casa Bianca, al candidato repubblicano invece solo 126. Ma insomma, abbiamo tempo fino a novembre per vedere cosa succede. La Cina che si muoverà con decisione contro qualsiasi forma di indipendenza di Hong Kong, dopo che il raggruppamento detto pro-democrazia è riuscito ad aumentare il potere di veto nel Consiglio legislativo, il mini Parlamento dove sono entrati alcuni leader del movimento degli ombrelli e pro-indipendenza di Hong Kong. I media di Pechino hanno rilanciato il monito dell'ufficio degli affari di Hong Kong a Macao, che fa capo al governo, secondo cui l'indipendenza di Hong Kong è contraria alla Costituzione. Di nuovo in Italia con la cronaca, blitz contro gli anarchici del FAI, un'operazione antiterrorismo della Digos in tutta Italia contro la FAI, Federazione Anarchica Informale. 7 arresti e accuse per l'esplosione di 3 ordigni nel 2007 e nel 2006, 2 dei quali, secondo gli investigatori, avrebbero avuto il preciso obiettivo di uccidere. Fra gli arrestati anche Cospito e Gai, già condannati per l'attentato al manager Roberto Adinolfi. La FAI, che aveva base a Torino, è accusata di quasi 50 azioni terroristico-eversive in 13 anni di attività, in collaborazione con anarchici residenti, fra l'altro a Roma, a Pescara e a Viterbo. È morto a 63 anni all'ospedale Marino di Cagliari Salvatore Usala, storico leader delle battaglie dei disabili gravi, malato di SLA da tempo, ha condotto per anni una guerra a tutto campo con le istituzioni, sfociata in scioperi della fame e della sete, del rifiuto delle terapie salvavita per il riconoscimento dei diritti della persona come lui, delle persone come lui affette da patologie gravissime. Le sue condizioni poi si sono aggravate da metà agosto. Parliamo adesso di università, quiz di ammissione per aspiranti medici e dentisti questa mattina nelle università di tutta Italia, ma non mancano le polemiche. I test d'ingresso sono inaffidabili e l'accesso programmato è lesivo del diritto allo studio. È la denuncia delle associazioni universitarie che hanno protestato nelle sedi d'esame davanti agli ospedali e al Ministero dell'Istruzione. Antonio Michele Carrassi, preside della Facoltà di Medicina all'Università Statale di Milano. Penso che il test possa essere migliorato, ma non vedo sinceramente alternative. Intanto sono stati 62.000 gli studenti che hanno affrontato il quiz di medicina e odontoiatria. Il 20 settembre sapranno se ce l'hanno fatta, ma c'è già chi ragiona sul piano B. Se non passi il test, riprovi l'anno prossimo? Sì, certo. Sicuramente sì. Non credo, sinceramente. Le selezioni continuano nei prossimi giorni coi test per veterinaria e architettura. Daniele Zinni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso una notizia che riguarda Samantha Cristoforetti, la prima astronauta italiana che si prepara a una nuova missione, questa volta un po' particolare. Astro Samantha sarebbe in attesa del suo primo figlio. È facile, credo, appassionarsi dello spazio perché c'è tutto dentro, c'è l'avventura, c'è il lavoro di squadra, c'è la meraviglia. E le avventure per la prima donna astronauta italiana non sono finite. Samantha Cristoforetti è incinta. Il pancione non sembra essere sfuggito agli occhi attenti dei fotografi durante il forum di Cernobbio, sebbene Samantha abbia provato a nasconderlo dietro qualche vestito abbondante. 39 anni compiute ad aprile e niente meno che un record di 200 giorni nello spazio, la missione più lunga mai affrontata da una donna. Ma la Cristoforetti è sempre stata molto riservata riguardo la sua vita privata, ancora nessuna dichiarazione infatti su chi possa essere il padre. Ogni giorno sei lì che impari qualcosa di nuovo, che lavori, metti un mattoncino che ti porta, non la chiamiamo la strada verso la rampa di lancio che dura tanti anni, finché poi un giorno magicamente c'è un razzo che aspetta te per portarti nello spazio. Eugenia Fiore, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Cinema alla Mostra di Venezia, in attesa dell'ultimo film di Terence Malick che verrà presentato alla stampa questa sera. Al Lido è stato il giorno di Anna Lily Armanpour, soprannominata la Tarantino donna, ma per questo ci collegheremo poi più tardi con Venezia. Per la tecnologia in arrivo una novità per Apple e iPhone 7, sarà un po' più sottile, sicuramente più veloce, con uno schermo e una camera migliori. Queste sono le certezze che sembrano emergere dalla folta selva di rumors che si susseguono in attesa della presentazione ufficiale domani. Poi c'è questa sentenza della Cassazione: masturbarsi in pubblico non è reato. La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio una condanna per atti osceni in luogo pubblico a un uomo di 69 anni di Catania, giudicato colpevole in primo e secondo grado per essersi masturbato davanti ad alcune studentesse universitarie. Prendendo atto, quindi la Cassazione ha annullato questa condanna, prendendo atto del decreto legislativo del 2015 che depenalizza il reato. Al posto della condanna è prevista una sanzione amministrativa compresa fra 5.000 e 30.000 euro. Non è specificato quanto è stato fatto pagare. Per chiudere lo sport, a Roma non è ancora risolta la vicenda delle Olimpiadi. Si tiene ben lontano dalla bufera che sta investendo il Campidoglio e incontrerà la sindaca Raggi solo dopo le Paralimpiadi di Rio de Janeiro, che si concluderanno il 18 settembre. Ma sulla candidatura di Roma ai giochi del 2024 il presidente Malagò usa parole quasi definitive. Entro il 7 ottobre bisogna presentare, come faranno le altre candidate Parigi, Budapest e Los Angeles, al Comitato Olimpico Internazionale la seconda parte del dossier con garanzie legali, governative e copertura finanziaria. La firma del comune è essenziale, non tanto dal punto di vista tecnico, quanto per la credibilità stessa della candidatura. E sia chiaro, sottolinea il numero uno del CONI, si è in corsa per presentare la candidatura, non già per ospitare i giochi. Ritirarsi ora, quindi, renderebbe poco credibile candidare altre città per molti quadrienni a venire. Se ci dovessimo fermare in corso di candidatura, perderemo qualsiasi credibilità per moltissimo tempo, per secondo me decenni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bene, e con questo è chiuso il riassunto della giornata, delle notizie principali. Poi comincerò naturalmente, come sempre, dopo la viabilità a approfondire alcuni argomenti con i vari ospiti. Intanto vedo che in molti state scrivendo sul caso di Roma, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte che al 349-238-6666, che vi ricordo il numero per SMS e WhatsApp. Per esempio, questo messaggio su WhatsApp dice: in Italia c'è un sindaco che amministra una città di milioni di abitanti. Il sindaco è Sala, la città è Milano. Il sindaco ha mentito sulle sue proprietà, ha nominato assessore un suo socio in affari, è stato costretto a rimuovere il suo segretario generale dopo solo 5 giorni perché è stato rinviato a giudizio per turbativa d'asta. Tutto questo il TG, anche Radio 24 tace, nessuno lo dice, dice tutti invece a fare le pulci al neo sindaco di Roma e alla sua giunta. In realtà non mi pare, insomma, che il sindaco Sala sia indagato in questo momento. Per quanto riguarda Roma, mi pare che la questione sia un po' diversa. Comunque diamo notizia in realtà di tutto e vediamo anche come procederà questa vicenda. Mi sembra che anche all'interno del Movimento 5 Stelle si stia ipotizzando, insomma, di premere un po' per chiedere le dimissioni dell'assessore Muraro, ma stiamo a vedere. Intanto altri messaggi, per esempio Chiara sulla pagina Facebook di Effetto Notte dice: pretendere le dimissioni altrui al minimo avviso di garanzia, che vuol dire solo che ha aperto un fascicolo, invece per sé sostenere che ci riserviamo di leggere le carte, dice, ripetendo un po' le parole della sindaca Raggi, dice: ah, coerentissimo. Rosanna scrive: è sotto gli occhi di tutti che chi pretendeva chiarezza dagli altri ha dimostrato di non sapere cosa significa essere chiari, hanno mentito e ciò mi pare grave, preferisco fermarmi qui. Poi Angela dice: tutto il vecchio sistema in fibrillazione, non può accettare che chi è stato sempre fuori dal palazzo vi metta piede, occhi e testa, se non si dimette faranno comunque di tutto per eliminarla, ma noi dovremo fare i conti con noi, cioè il popolo del Movimento 5 Stelle, insomma. Messaggi di varie parti, di vari punti di vista. Continuate a 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, e tra poco torniamo insieme. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di nuovo insieme, Roberto Giordano sempre con voi, quindi riassunto della giornata con le notizie principali prima della prima parte. Adesso cominciamo invece con gli ospiti a approfondire i diversi temi, prima di tutti naturalmente il caso di Roma. Vedo ancora i vostri messaggi al 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte, che continuano su questo tema, che infatti è il tema caldissimo di questi giorni. Dice Giorgio: ci si fa un'idea con dati e prove alla mano, il resto è giustizialismo. Da un punto di vista politico credo che il Movimento 5 Stelle mostri come naturale ancora passi falsi di inesperienza e di scarsa organizzazione in posizione esecutive. Intanto però, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo quali sono le notizie principali. Bufera sul Movimento 5 Stelle a Roma, direttorio Fiume, lunga riunione, base in rivolta, Di Maio diserta la TV, indagine sulla nomina anche della ex capo di gabinetto Ranieri. Renzi nella manovra aiuto, dice, fa un anticipo nella puntata registrata di Porta a Porta, nella manovra ci sarà un aiuto alle pensioni minime e l'anticipo per l'uscita negli ultimi 3 anni, sblocco dei contratti degli statali e sgravi alle partite IVA. L'Italicum pronti a cambiarlo se ci sono i numeri, è sempre Renzi che anticipa in TV e dice anche che per quanto riguarda il referendum ci dovrebbe essere tra il metà novembre e il 5 dicembre. Vertice intanto a Palazzo Chigi sul sisma, i soldi ci sono, ora bisogna spenderli bene, dice il Presidente del Consiglio. Presidenziale americane, testa a testa Hillary Trump per la Casa Bianca, il tycoon avrebbe un più 2% del voto popolare, ma la Clinton vince negli stati secondo i sondaggi naturalmente. Test di medicina al via tra le proteste nelle università italiane, ne passa 1 su 6, in palio 9.224 posti e c'è stato un sit-in davanti al Ministero dell'Istruzione protestando no al numero chiuso. Blitz contro gli anarchici del FAI, 7 arresti a Torino, accuse per esplosione di 3 ordigni, volevano uccidere, dicono gli inquirenti. E poi saluti romani allo stadio di Haifa, allontanati 2 italiani, successo agli inni prima della gara fra Israele e Azzurri. Quindi anche oggi partiamo dalla politica italiana, nella quale tengono decisamente banco le vicende della giunta capitolina, con in primissimo piano il caso naturalmente dell'assessore all'ambiente Paola Muraro, indagata per un reato ambientale. In pratica la procura di Roma sospetta che vi sia stato un accordo illecito tra il proprietario di alcuni impianti cittadini per i rifiuti, Manlio Cerroni, e l'assessore all'ambiente all'epoca dei fatti, era consulente della municipalizzata dell'AMA del Campidoglio, per questo accordo per spartirsi, secondo gli inquirenti, lo smaltimento della spazzatura a Roma. Al tempo la Muraro lavorava come consulente dell'AMA, ha lavorato per circa 12 anni. Ieri l'assessora e la sindaca Raggi sono state ascoltate, ne abbiamo parlato, alla Camera, dalla Commissione Comafi. Hanno detto di aver saputo a luglio che Muraro era indagata, era iscritta dai PM in realtà dal 21 aprile nel registro degli indagati. Quando è stata nominata assessora all'ambiente, quindi Paola Muraro era già sotto inchiesta. Ieri sapete che c'è stata un po' questa polemica sul fare una differenza tra essere indagati e tra aver ricevuto l'avviso di garanzia. La prima cittadina ha detto: non ho mentito, nessuno mi ha chiesto prima delle indagini, i vertici del Movimento 5 Stelle sapevano. Poi si è corretta, ha detto: l'ho detto solo a Vignaroli e Taverna. E oggi naturalmente è stata una giornata febbrile, molto concitata, frenetica quella dei 5 Stelle, con un vertice per capire come procedere a questo punto, e l'ipotesi più probabile, secondo le indiscrezioni, potrebbe essere quella di invitare l'assessora Muraro a fare un passo indietro. Nel frattempo cosa è successo? Che Di Maio non è andato in TV la prima puntata di Politics, che è la trasmissione su Rai 3 che ha preso il posto di Ballarò. Di Battista ha disertato il tour che aveva intrapreso. Grillo intanto sembra che taccia sul suo blog, e quindi il Movimento 5 Stelle sceglie il silenzio pubblico. Ne parliamo con la nostra Barbara Fiammeri, commentatrice politica del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera a tutti. Dunque, io ti farei sentire, l'ho fatto sentire all'inizio, l'assessore Berdini all'urbanistica di Roma, della Giunta 5 Stelle, che ha fatto questa dichiarazione. C'è stato un evidente errore di sottovalutazione, cioè questa storia dell'esistenza di un'indagine doveva essere resa esplicita, alla città è stato taciuto questo elemento, basta prenderne atto, un'assunzione di umiltà, che ci sia un nuovo corso della politica che non ha più il volto arrogante, ma accetta anche di aver sottovalutato gli effetti di una mancanza di trasparenza. Quindi l'assessore Berdini dice c'è stato un errore, è stato sottovalutato e adesso bisogna prenderne atto e cambiare passo, no? Tra l'altro questa bufera che ha colpito Virginia Raggi e la sua giunta rischia anche di compromettere l'immagine stessa, no, dell'intero Movimento 5 Stelle. Fra l'altro pare che ci sia anche questa tensione tra Virginia Raggi e i big pentastellati, Barbara. Allora, diciamo subito una cosa, la questione non si risolve con la testa dell'assessore. Cioè non è che cadendo la testa della Muraro scoppia la pace tra i 5 Stelle e comunque la loro credibilità, riacquistano la loro credibilità. Qui c'è un errore, cioè c'è un limite a monte che emerge con forza, nel senso che i 5 Stelle sono arrivati alla guida di una grande città e per un deficit loro di competenze hanno coinvolto persone estranee al movimento. Di queste persone sappiamo che ci sono due assessori importanti, l'assessore al bilancio Minenna, che si è dimesso in modo molto polemico, il capo di gabinetto, il magistrato che era stato incaricato come capo di gabinetto, anche lei con un'intervista oggi ha detto chiaramente che non era disponibile ad avallare certe irregolarità. Questo perché? Perché appunto, ed è sorprendente, cioè il caso della Muraro secondo me è un po' un caso di scuola. La Raggi, ricordiamoci che per fare questa giunta sono passati un sacco di giorni, c'era stato detto in campagna elettorale che l'avremmo conosciuta prima, poi invece si è atteso parecchio, si è arrivati al 7 luglio, al giorno praticamente dell'insediamento del Consiglio Comunale. Che cosa succede? Cioè succede che si sceglie un assessore in una competenza fondamentale in una città come Roma, che è da sempre preda di appetiti sul fronte spazzatura, e si sceglie di prendere una persona che comunque è stata per gli ultimi dieci anni consulente di AMA, della società appunto municipalizzata perché riguarda la spazzatura romana. Un'ingenuità secondo te? Beh, io spero che sia non so se è più grave un'ingenuità o se c'è della malafede, sinceramente. Perché dico questo? Perché un consulente non è un dipendente, un consulente per essere consulente gli si deve fermare la consulenza. Allora, le due persone che hanno gestito AMA negli ultimi 10 anni sono sotto inchiesta per mafia capitale. Allora, questi signori chi ha deciso di dare la consulenza alla Muraro? Può darsi che lei abbia agito benissimo, che sia una persona super competente, però, come dire, un punto interrogativo sul fatto che una persona ottiene delle consulenze da personaggi che sono, su cui peraltro il Movimento 5 Stelle ha fatto la campagna elettorale contro le precedenti amministrazioni, ovvero quella del PD e quella precedente ancora di Alemanno. Ma ancora di più, il personaggio a cui faceva riferimento per esempio l'assessore ai trasporti, che diceva bisogna cambiare passo, in questa registrazione lui aggiunge che uno degli elementi appunto è anche praticamente allontanare chi, come dice anche la deputata Lombardi, chi del movimento non ha mai fatto parte. E qui rientra in gioco la figura di questo Marra, che ha lavorato con la Polverini, ha lavorato vice con Alemanno, capo di gabinetto, no, adesso sì, della RAGI. Sì, su cui fin dall'inizio c'è stato uno scontro fortissimo dentro il movimento. Allora, tutte queste cose lasciano, secondo me, rendono perplessi sulle capacità, appunto, come diceva anche un ascoltatore che ci ha scritto, sulle capacità poi di gestire, cioè di gestire una città importante e, per chi si candida alla guida del paese, per gestire un paese. Cioè non si può pensare che basta gridare onestà, onestà. È chiaro che adesso loro sono alla prova proprio dei fatti, e anche se vogliamo è stupefacente secondo me il silenzio che sta caratterizzando questa fase, che è un silenzio assordante, perché i 5 Stelle, ricordiamoceli all'inizio della legislatura con tutto in streaming, le assemblee in streaming, poi questo streaming piano piano si è ridotto ed è stato sostituito praticamente da una sorta di, cioè mi fa venire in mente, no, i partiti comunisti di un tempo in cui nelle segrete stanze non si sapeva niente, poi si usciva fuori e i giornalisti si diceva va tutto bene, andiamo avanti. Oggi si è assistito un po' a questa scena per cui sono chiusi da 10 ore dentro delle sale del Parlamento, riuniti, e non c'è nulla che emerga all'esterno. Poi ci faranno sapere qual è la decisione ufficiale, però, come dire, c'è una contraddizione proprio, no? Ed è un passaggio fondamentale, questo, diciamo, secondo me. Un momento molto, molto complicato per il Movimento 5 Stelle. Senti, beh, Danilo scrive: la montagna a partire dal Topolino, troppo baronda mediatica, sin troppo concentrata, la Raggi è sotto tiro anche da fuoco amico, ma sono colpi a salve perché mi pare di capire che non si punta a farla dimettere, semmai a correggere alcune sue scelte ne uscirà più forte. Secondo te è possibile che ne esca più forte? No, secondo me qui le cose sono due. Cioè, o la Raggi decide di abdicare, cioè di mettersi nelle mani del direttorio di Grillo, perché loro a un certo punto nello scontro su Marra, Grillo e Di Maio, che ha una posizione particolare, perché non ci dimentichiamo in tutto questo che c'è questa famosa mail di cui si è parlato, che poi è stata negata, che Di Maio appunto avrebbe ricevuto dalla Taverna e da Vignaroli, in cui veniva messo a conoscenza di queste indagini e del direttorio dei 5 Stelle, a partire dalla Lombardi e da altri, ci hanno subito tenuto, dalla Ruocco, hanno tenuto a far sapere, noi non ne sapevamo niente, quindi anche una frizione all'interno del vertice proprio, quindi non più romana ma nazionale, in quanto se Di Maio effettivamente fosse stato informato dagli altri che c'era un'indagine in corso e non avesse messo a conoscenza gli altri membri, sarebbe lo stesso grave, Grillo, sarebbe una gravissima, no, sarebbe gravissimo. Quindi ci sono una serie di elementi. La cosa che non può rimanere, cioè come dire, qui o la Raggi decide di piegarsi e quindi manda via la Muraro, manda via Marra, l'altro, che il capo segreteria Romei, quello che si era per cui era stato triplicato lo stipendio, cioè quindi dà un nuovo corso lasciando, oppure si va, si andrà avanti. A me oggi sinceramente, non pensavo in tempi così rapidi, mi ha fatto venire in mente la stagione Marino, con un sindaco di fatto sfiduciato dal suo partito, per arrivare poi a chiedere le dimissioni di Marino. Siamo arrivati alle famose firme, è passato oltre un anno, però insomma fin dall'inizio, no, si è visto che c'era una fortissima frizione tra il Partito Democratico e il suo sindaco. Il rischio che possiamo correre, che è un po' quello che è avvenuto, che abbiamo visto a Parma, soltanto che Roma non è Parma. Barbara, senti, anche Renzi in questa anticipazione di Porta a Porta che ci sarà poi stasera ha detto indecorose, tante bugie, ma non festeggio, perché se va male Roma chiaramente è un problema per tutta l'Italia. Renzi ormai ha deciso di usare i toni light, manda le sue frecciate. Qualcuno deve avergli detto che è meglio che non fa il Fonzi della situazione. Senti, ma Fonzi però ha anche detto che poi ha anticipato varie cose della legge di stabilità, ha parlato di misure a favore delle partite IVA, dei dipendenti pubblici e sulle pensioni, di aumentare le pensioni minime e anche di permettere questa anticipazione, no, di uscita dal lavoro che dovrebbe costare pochissimo. Sembrano tutte delle misure, insomma, confortanti. Ha detto anche un'altra cosa, ha parlato del rapporto deficit-PIL dicendo non sforeremo il 3%, ma ha parlato di un 2,3 e 2,4. Questo significa che si sta prendendo dei margini di flessibilità di cui finora non eravamo a conoscenza, che significa avere una, se così fosse, una disponibilità finanziaria da mettere in stabilità maggiore di quella che si pensava. Le risorse sarebbero quindi destinate a coprire queste misure oggi anticipate dal Presidente del Consiglio. In sostanza lui ha annunciato una quattordicesima per le pensioni minime. Sì, è vero. Poi ha annunciato appunto la possibilità di pensionamento anticipato di 3 anni che dovrebbe costare pochissimo, dice, speriamo. Che dovrebbe costare pochissimo ai pensionati, e poi appunto questo sconto fiscale sulle partite IVA. Queste mi sembrano le cose principali. Barbara, ti stavo per interrompere, scusa, perché è appena uscita la decisione del direttorio. Il direttore del Movimento 5 Stelle, al termine della riunione Fiume su Roma, durato tutto il giorno, ha valutato di chiedere un passo indietro dei due assessori al Campidoglio, Muraro e De Dominicis, che era appena stato nominato Dominicis, no, al bilancio. E una delle soluzioni, spiega Roberto Fico, è un'ipotesi che non smentiamo, aggiunge Carla Ruocco. Quindi c'è ancora in realtà un po' di sospensione. Appunto, questo ci siamo dimenticati, perché in questi giorni le notizie si sovrappongono, perché l'altra cosa è passata in sordina adesso in questa nostra chiacchierata, appunto, è quella del neo assessore al bilancio che aveva preso il posto di Minenna, che questo magistrato della Corte dei Conti, di cui ieri la sindaca Raggi ci ha decantato le lodi, però che ha detto che praticamente il suo nome lo ha detto lui, lo ha ammesso lui in due interviste sul Corriere della Sera e su Repubblica, in cui diceva ingenuamente che in realtà a fare il suo nome era stato il famoso studio San Marco. San Marco, avvocato di Previti, lo studio legato a Previti. Sì. E quindi anche qui, insomma, è evidente. La situazione è caotica. Barbara Femmeri, ci dobbiamo lasciare. Grazie di questa analisi, Barbara, e buon lavoro. Ci sentiamo prestissimo. Ciao Barbara. Intanto vi devo dare invece una brutta notizia di un aereo precipitato in Macedonia. Sarebbero morti 4 cittadini italiani, 2 kosovari, le vittime dell'incidente aereo di questo pomeriggio in Macedonia. Lo ha detto la TV privata macedone, il direttore dei servizi di sicurezza macedone, a destinazione finale del Piper, partito da Treviso, aggiunto era Pristina, capitale del Kosovo. Bene, con questa notizia per il momento ci prendiamo una pausa. Voi continuate con i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al numero per gli SMS e WhatsApp 349-238-6666. Ci sentiamo a breve. Oscar, mi aiuti? Eccomi! No, stai attento, prendila di lì! Ma cosa? È scivolosa! Guarda che esplode questa notizia, guarda che è una bomba! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. Notizie esplosive. E schiene dritte. Attenti a noi due, ogni giorno dalle 8:20 su Radio 24. Con Alessandro Milan e Oscar Giannino. L'informazione che non ha paura. Semmai ne fa. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vedo i vostri messaggi, continuano sui temi del giorno, soprattutto sul caso della giunta capitolina. 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Notte. Tanto per fare un tema diverso, Emanuele scrive che Samantha smentisce la Lorenzina e probabilmente ha congelato prima della missione gli ovuli, considerando che ha preso più radiazioni di un minatore di uranio in una vita, dice Achille. Samantha Cristoforetti, che è rimasta incinta, non ho idea, non ho la competenza per dire se si prendono radiazioni andando, diciamo, facendo missioni extraterrestri, ecco, non saprei dire. Poi abbiamo visto, vi dicevo poco fa, che il direttorio del Movimento 5 Stelle sta per prendere una decisione, anche se Fico avverte che non è finita questa riunione fiume di oggi, però pare che l'ipotesi più accreditata sia che venga chiesto un passo indietro a due assessori della giunta capitolina, l'assessora Muraro, che è indagata, e anche De Dominicis, neo assessore al bilancio. A quanto si apprende da fonti parlamentari, il direttore avrebbe chiesto alla sindaca Raggi di ridiscutere la nomina anche di Raffaele Marra, vice capo di gabinetto. Quindi insomma molto sommovimento per quanto riguarda Roma. Adesso però tra poco passiamo a un altro argomento, ma vi ricordo quali sono le notizie principali. La bufera sul Movimento 5 Stelle a Roma, i vertici pentastellati divisi, molti per le dimissioni dell'assessora Muraro, Pizzarotti attacca via il direttorio, Renzi anticipa la nuova legge di stabilità, più soldi alle pensioni minime, uscire prima costerà pochissimo e sblocchiamo i contratti pubblici, e sul terremoto annuncia la ricostruzione durerà molti anni, i soldi vanno spesi bene, ne parleremo tra poco. Blitz contro gli anarchici del FAI, 7 arresti a Torino, accuse per esplosioni di 3 ordigni, secondo gli inquirenti volevano uccidere. E poi università, oggi c'è stato il test di ammissione a medicina, 9.224 i posti disponibili, passerà 1 su 6, protesta al Ministero dell'Istruzione, no al numero chiuso. Samantha Cristoforetti, la prima donna astronauta italiana, è incinta. Quindi torniamo a parlare del terremoto che ha colpito il centro Italia, perché la terra continua a tremare nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto e nelle ultime ore si è accanito purtroppo anche il maltempo. Per cercare di mettere a punto un piano di prevenzione, un piano antisismico, oggi c'è stato un incontro a Palazzo Chigi nel quale il Presidente del Consiglio Renzi, durante le prime consultazioni con le parti sociali, con tutti i soggetti interessati, ha indicato i punti principali delle linee guida per il post terremoto nell'ambito di un progetto che si chiama Casa Italia. E nella registrazione della puntata di Porta a Porta di stasera Renzi ha detto: il problema non sono i soldi, ci sono, bisogna spenderli bene. Sentiamo questi passaggi. Alla fine ci sono, bisogna spenderli bene, bisogna evitare che la gente ci mangi sopra, bisogna evitare che siano fatti interventi a capocchia. Io dico, su questo tema, questo è il senso del progetto Casa Italia, reagendo in modo molto, credo, serio, molto pacato, senza annunci ad effetto, non ho detto una cifra, non inizierò a dirla adesso, io dico a tutte le forze politiche, la smettiamo di litigare su questo. Quindi in realtà ha smesso che ci siano cifre precise su questo piano di ricostruzione e di prevenzione, anche per appunto costruire finalmente in modo antisismico, in modo che non si debba poi piangere e avere sempre queste situazioni di emergenza. Sentiamo su questo, a proposito di parti sociali, di soggetti interessati, anche Boccia, presidente di Confindustria. E quindi con questo spirito, diciamo, di una visione di medio termine, di un paese che deve reagire e che deve ricominciare a progettare, e con questo metodo, che è quello dell'ascolto del governo in termini di proposte da parte delle parti sociali, si avvia, diciamo, una questione che può essere un modello che parte da questa questione particolare, che dà un'idea di medio termine del Paese e che può riguardare anche elementi dell'economia complessiva, cioè la crescita. Renzi ha sottolineato che a fine mese saranno tirate le somme, si procederà con la verifica tecnica, si parlerà nelle prossime settimane delle risorse, poi a fine mese un nuovo incontro con i sindacati, che per ora parlano di metodo giusto. Ne parlo con Francesco Peduto, che è presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Buonasera Peduto. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Che ne pensa di questo progetto Casa Italia? Mi sembra un'ottima idea, un bel punto di partenza. D'altronde noi geologi quanto chiediamo da almeno un decennio. Noi viviamo in un paese geologicamente giovane e quindi molto fragile, e abbiamo sempre detto che queste problematiche, come quelle del rischio sismico o del rischio vulcanico, non possono non essere una priorità nelle agende del governo di turno, e quindi necessariamente bisogna puntare su queste cose con dei piani a lungo termine, anche perché lo stato del nostro territorio, vuoi dal punto di vista sismico che idrogeologico, per fermarci perlomeno a questi due punti, è tale che non può essere risolto se non con un ragionamento di medio termine, insomma. Quindi una pianificazione quantomeno decennale, se non pluridecennale. Infatti parlava Renzi, no? Dice ci vorranno almeno 10 anni per parlare in termini concreti. La cifra di 2 miliardi in realtà per la prevenzione sismica, dice non, per il momento non voglio anticipare cifre, comunque penso ci sarà bisogno di un investimento piuttosto considerevole, no Peduto? Credo proprio di sì, però l'importante, guardi, è partire, perché noi nei decenni abbiamo pianto davvero tanti morti ed è il caso di cominciare a mettere un freno su queste cose. Se poi vogliamo parlare di soldi, noi abbiamo ricordato in più occasioni che negli ultimi 50 anni per riparare i danni dovuti ai terremoti nel nostro paese abbiamo speso la bella somma di 150 miliardi di euro. Quindi se si fosse partiti prima, pensi lei, insomma, che bel servizio avremmo potuto fare al nostro territorio e magari salvare contare tante anche vite. Qualche vittima in meno. Insomma. Dottor Peduto, per chiudere, leggevo questa cosa oggi, che il terremoto del 24 agosto ha provocato nel Reatino l'allargamento dell'Appennino di circa 3-4 centimetri tra il Tirreno e l'Adriatico. Ci dà la misura di questo fenomeno? Anche questi, mi consenta di dirlo, sono numeri ancora ballerino, c'è chi parla di 2 centimetri, chi 3, chi 4, insomma voglio dire è un processo che normalmente si ha ogni volta che c'è un terremoto. Noi, come ripeto, siamo un paese di confine tra due placche che sono quelle africane e quella europea. Lungo queste placche avvengono questi tipi di situazioni, rischio sismico, rischio idrogeologico, rischio vulcanico. Noi per questo non ci facciamo mancare niente e per questo noi geologi ripetiamo sempre che questi argomenti debbono costituire una priorità. Per dare un attimo il senso di che cosa siamo noi e di quanto siamo diversi dagli altri paesi europei, le cito il dato delle frane. Sì. Nel nostro paese abbiamo oltre il 70% delle frane che sono presenti in tutto il continente europeo, 700.000 nel continente europeo, circa 530.000 nel nostro paese. Ecco perché, a differenza degli altri paesi, noi dobbiamo guardare con un altro occhio, con un altro spirito e con un altro impegno ai problemi dei dissesti geologici. Con tutta un'altra responsabilità. Grazie, dottor Peduto, ricordo presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie. Viabilità. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna. Asiago 8-11 settembre. Vi presenta. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Roberto Giordano sempre con voi, c'è Max Taxi che scrive al 349-238-6666, potete scrivere anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Se si fosse stati così puntigliosi con tutte le giunte precedenti, forse Roma non avrebbe tutti questi miliardi di deficit. Aspettiamo, effettivamente non è un commento peregrino. Vi ricordo velocemente le notizie più importanti, appunto la bufera sul Movimento 5 Stelle a Roma, un direttorio fiume c'è stato e adesso sembra che l'ipotesi più fondata sia che il direttorio chieda un passo indietro all'assessore Muraro, ma anche al neo assessore De Dominicis al bilancio. Poi Renzi che anticipa nella puntata registrata di Porta a Porta che nella manovra, nella legge di stabilità ci sarà un aiuto alle pensioni minime e anche uno sblocco dei contratti degli statali e degli sgravi alle partite IVA. E poi vertice sul sisma, i soldi ci sono, ora bisogna spenderli bene, dice il Presidente del Consiglio al via il progetto Casa Italia di cui abbiamo appena parlato. Europa 24 notte. Non solo vittime e macerie a proposito del terremoto, i comuni colpiti tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo dopo il terremoto del 24 agosto provano a fare la conta dei danni anche nelle realtà produttive legate all'agricoltura e all'allevamento e scoprono presto che tutto è bloccato. È l'Unione Europea a svincolare un anticipo di 12 milioni di euro del piano di sviluppo rurale. Nelle zone terremotate del centro Italia, oltre alle abitazioni, le scuole, i negozi e i servizi, sono state colpite fortemente anche l'agricoltura, l'allevamento e le realtà produttive collegate, settori economici strategici per questi territori. Agriturismi e aziende agricole, stalle di bovini e ovini e l'intero comparto zootecnico risultano al momento bloccati nelle attività, specie nelle aree più colpite tra Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Fare una conta dei danni non è ancora possibile, tanto è grande la devastazione post-sisma in alcuni luoghi, ma le regioni si sono attivate per raccogliere le segnalazioni di chi ha perso capi di bestiame, di chi si ritrova con edifici lesionati o peggio ridotti a macerie, di chi ha impianti e strumenti di lavoro compromessi. L'assessore all'agricoltura della Regione Lazio, Carlo Hausmann, coordinatore di tutte le politiche agricole post-terremoto, ha organizzato diversi sopralluoghi e tavoli operativi utili a rimettere in moto quanto prima la macchina delle attività agricole. L'estensione e la gravità del danno è veramente pazzesca. In questo momento i danni più grandi sono sulle residenze degli agricoltori. La stagione fredda è veramente molto vicina e quindi abbiamo bisogno di capire come le aziende possono, almeno in forma temporanea, assicurare i ricoveri per il bestiame. Ma l'accertamento dell'ammontare dei danni è necessario per sbloccare gli indennizzi previsti dal PSR, vale a dire il piano di sviluppo rurale per la ricostruzione. Ecco perché i tecnici della Regione Lazio sono al lavoro attraverso uffici mobili per raccogliere nei territori interessati i dati necessari per l'avvio delle procedure. Intanto, per far ripartire il settore agricolo, di vitale importanza per queste terre, il Ministero delle Politiche Agricole ha chiesto e ottenuto un anticipo di fondi svincolati dall'Unione Europea. Il Ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina. Abbiamo deciso di aumentare fino a 12 milioni gli anticipi dei contributi europei per le 1000 aziende agricole dei 16 comuni delle realtà terremotate del centro Italia. E questo è un primo atto importante per garantire più liquidità agli imprenditori agricoli e alle aziende agricole del territorio più colpito. Questi sono fondi della politica agricola comune che, anziché venire assegnati su un tempo medio-lungo, grazie al lavoro che abbiamo fatto in queste ore con Bruxelles, possono essere totalmente versati alle aziende al 100% entro il 15 di settembre. Ci sono tutte le condizioni per sviluppare un progetto di ricostruzione, di rilancio del sistema agricolo rurale di quei 16 comuni. E oltre i 12 milioni di euro sbloccati immediatamente, si sta anche lavorando su una seconda tranche. L'obiettivo è quello di arrivare a 25 milioni entro fine mese. Dal basso, invece, le persone coinvolte si muovono come possono. Da qui l'idea di un progetto a garanzia dei prodotti tipici del territorio di Amatrice, in cui obiettivo principale sia quello di garantire un mercato stabile e duraturo alle produzioni tipiche locali. Dal pecorino amatriciano al guanciale di suino nero, ingredienti dell'originale pasta alla amatriciana, dai salumi alla lenticchia, dal farro al miele di montagna. Questi simboli di Amatrice nel mondo. Chiara Piselli, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 Notte. In collaborazione con Euronet Plus. Siamo invece adesso al sipario sul cinema di Venezia, Festival del Cinema di Venezia, dove c'è la nostra inviata Marta Cagnola. Marta? Eccoci qui, sì, appena uscita dalla proiezione di Terrence Malick e come sempre a quest'ora quasi pronta per andare a cena, anzi siamo proprio in dirittura d'arrivo. Infatti ti volevo chiedere, a parte queste visioni di panorami femminili nel dettaglio di oggi, ti volevo chiedere quali sono i piatti forti del menù e tu mi hai parlato di mangiare, vedi tu se vuoi parlare di cinema o di cibo. Parliamo prima di cinema, sì, perché ho molta fame, quindi meglio parlare di cinema. Allora, Terrence Malick, quindi 90 minuti di documentario assolutamente visionario con musiche da Bach, Beethoven, la voce di Kate Blanchett, che si rivolge a madre natura, gli animali che vivono in simbiosi con la straordinaria madre natura e gli uomini per contrasto un po' meno, insomma una grandissima opera visionaria. Devo dire la verità, chi ha resistito fino alla fine ha applaudito tantissimo. Intanto, tu hai resistito? Sì, sentito gli applausi. Assolutamente sì, assolutamente sì, stoica. No, è bellissimo, però certo che lo sappiamo com'è Terrence Malick, una bella sfida. Poi che altro c'era? Allora, questa mattina la Tarantino donna. Allora, Anna Lili Amirpour, sì, iraniana di origine americana naturalizzata, un fantascientifico post-apocalittico, romantico ma anche cannibale, quindi puoi immaginare cosa possa succedere. Diciamo che una ragazza viene fregata e poi si innamora più o meno di quello che le ha staccato un braccio o una gamba, ma vabbè, insomma, molto singolare, però un po' splatter, sì, infatti. Senti, sì, lo consiglieresti, sì, per chiudere, Marta? a chi piace il genere, perché chi non va tanto d'accordo con i cannibali potrebbe anche essere un po' impressionato. Grazie Marta Cagnola, intanto non ti credo che sia sciupato l'appetito con questo, che sembra abbastanza forte. Noi ci sentiamo alle 22.